Proseguendo con le leggi della Lashon Hara e quindi la maldicenza, abbiamo visto diversi dettagli, abbiamo visto che anche la maldicenza non esplicita, quello che abbiamo chiamato nella scorsa lezione la polvere della maldicenza, ciò che farebbe arrivare alla maldicenza e così via, è ugualmente vietata. E ora vediamo un altro aspetto. Nel paragrafo 5 del capitolo 30 del Kitzur leggiamo così: Echad ha-mesaper lashon hara bifnei chavero o shelo befanav. Il discorso del divieto di lashon hara è ugualmente valido sia in che sia fatto in presenza dell'interessato di cui si parla, oppure che lui sia assente, è sempre vietato. והמספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק חברו בגופו או בממונו, è considerata lashon hara anche raccontare delle cose che se fossero, se si venisse a sapere di queste cose in pubblico, allora si potrebbe recare danno alla persona o economicamente, finanziariamente al soggetto di cui si parla. Quindi si dicono delle cose che potrebbero, se risapute, portare danno o alla persona fisicamente o ai beni della persona, o anche se solamente va filu le hazer lo o le afhido, o se fossero solamente delle informazioni che gli causerebbero dei problemi, delle difficoltà, o lo farebbero spaventare. Harizeh Lashon Hara. Tutto questo rientra nel divieto di Lashon Hara. Tuttavia, la Halacha condiziona la cosa e dice: Vim kvar nemru advarim bifnei shlosha, se già questi fatti di cui parliamo sono risaputi ad almeno tre persone, mistama kvar nitparsema davar. Se sappiamo che tre persone lo sanno, consideriamo che la cosa è già risaputa in pubblico e quindi se qualcuno di queste tre persone poi lo ripete a qualcun altro, non è considerato tecnicamente lashon hara. Quindi vim sipera davar echad min ha-shlosha, se uno dei tre davanti ai quali si è raccontata la cosa la racconta a sua volta, pam acheret, Ein bo mishum lashon hara. Non c'è qui il divieto vero e proprio di lashon hara. Ma in che senso non c'è il divieto? Se lui intende andare a portare la voce oltre e farla ancora più diffondere perché vuole che si sappia, allora questo è sì un problema. Behu shelo yitkaven le'avir hakol ul galoto yoter. Cioè questo vale purché la persona non abbia proprio l'intenzione di diffondere la notizia e farla meglio riconoscere e sapere a tutti. Se questa è l'intenzione, allora è sì un divieto di lashon hara. Come consiglio generale, ma takanoto shel adam shelo yavoli de lashon hara. Come può una persona cercare di proteggersi dalla lashon hara? Perché ovviamente stiamo parlando di un divieto che è estremamente difficile non inciampare in questo peccato. Allora, come si potrebbe invece cercare di evitarlo? L'Alaha dice, molto semplice, Im talmid chacham hu, se la persona che si pone questa domanda fosse uno studioso, cioè una persona che ha la possibilità di studiare la Torah, allora yasok ba Torah, si occupi della Torah, si impegni ancora di più nello studio, e avrà meno problemi di dire o non dire lashon hara. Vim am haaretzu, se una persona che non sa studiare, è un ignorante nello studio della Torah, allora yashpil dato, cerca di essere più umile. Se la persona pensa alla propria umiltà, al proprio essere inferiore rispetto ad altri, moralmente e così via, quindi la persona non avrà modo di pensare ai difetti degli altri, diciamo così, se quando non ha altre cose da fare, si occupa nel proprio pensiero di cercare di migliorare se stesso. Quando è che una persona migliora se stesso? Quando si rende conto che deve migliorarsi, e cioè si rende conto che non è perfetto. Quando pensa alla propria imperfezione, ai propri aspetti della propria persona che sono inferiori rispetto a quello che dovrebbero essere, allora avrà meno problemi anche lui di inciampare nel problema e nel divieto di Lashon Hara. Sempre su questa scia, continua nel prossimo seif, nel prossimo paragrafo che è 6, Amar Rabbi Irmiah Barabbah. Citiamo il Talmud dove è scritto che il maestro Rabbi Irmiah disse: Arba kitot en mekablot pnei Ashkina. Ci sono quattro gruppi, quattro categorie di persone che non sono ammesse ad incontrare, per così dire, non sono ammesse alla Shekhinah, alla presenza divina. Quali sono queste categorie? La prima, Kat Leitzim, coloro che deridono di tutto. Ogni cosa che si dice per loro è motivo di prendere in giro, di deridere, di sminuire l'importanza delle cose. La seconda cosa, Kat Hanefim, coloro che adulano, e cioè falsa importanza che danno ad altre persone per motivi di interesse personale. Terzo gruppo, che terza categoria, Kat Shekarim, o Meshakrim, coloro che dicono il falso, che mentono, dicono bugie. E la quarta, Vekat Mesaprei Lashon Hara, e coloro che dicono la maldicenza. E ognuna di queste si basa su un versetto. Partiamo dalla prima. Kat Letzim, riguardo a quelli che deridono, dichtiv è scritto Mashach Yado et Lotzitzim. HaKadosh Baruch Hu ritira la sua mano da chi beffeggia, è scritto nel profeta Hosea. Kat Hanefim, coloro che adulano l'adulatore, c'è scritto Chi lo le fanav Hanef Yavo. Nel Iov, libro di Giobbe, è scritto l'adulatore non giungerà dinanzi a lui, dinanzi ad HaKadosh Baruch Hu. Quindi non si presenta davanti alla Shekhinah. Coloro che dicono le bugie, dichtiv come è scritto, Dover Shkarim lo yikon le neged enai, è scritto nel Teilim, nel 101, il bugiardo non potrà rimanere davanti ai miei occhi, dice HaKadosh Baruch Hu. E riguardo a coloro che raccontano la Lashon Hara, la maldicenza, Kat Mesaprei Lashon Hara, dichtiv è scritto, Ki lo kel chafetz resha, ata lo yegurcha ra. E secondo l'interpretazione di Rashi, questo versetto sempre dei Salmi, ma nel Salmo numero 5, poiché tu non sei un Dio che ama la cattiveria, il male non dimora presso di te. E Rashi spiega appunto lì che la malvagità a cui ci si riferisce qui è quella della Lashon Hara, della maldicenza, perché nello stesso brano del Tehillim si parla di chi non ha neanche una parola giusta nella sua bocca, quindi di chi parla male. Ve'amru raboteinu zichronami vracha, e dissero inoltre i nostri maestri. Kol leitzanuta asira, ogni derisione, deridere, è vietata, bar, eccezione unica, leitzanuta davodate lilim, davodazara. L'unica derisione che è permessa è quella nei confronti della avodazara, idolatria. Come è scritto, Vayhi vatzaorayim vayatel bahem Eliyahu. Ed è scritto nella storia, nel libro dei re, e si approfondisce nel Talmud, che nel momento in cui c'è stata una situazione in cui molti ebrei seguivano dei profeti falsi, profeti del Baal, culti idolatri legati al Baal, Eliyahu Hanavi, il profeta Eliyahu, mise alla prova, per così dire, questi profeti, portando sotto istruzione ovviamente della Halakha di HaKadosh Baruch Hu in quel caso, non è un caso normale, ma in casi d'eccezione era permesso, fece fare un sacrificio ai profeti del Baal sul Monte Carmel e aspettarono tutto il giorno perché il loro Dio invii un fuoco per consumare questo sacrificio, cosa che non avvenne. E mentre aspettavano, Eliyahu Hanavi derideva di loro e di loro dei, diceva: forse dovete pregare alta voce, più alzare la voce, perché forse il Dio vostro sta dormendo, proprio così, cioè derisione. Mentre invece alla fine della giornata Eliyahu Hanavi porta il suo Corban e scende un fuoco dal cielo davanti a tutto il popolo e consuma il Corban. E Eliyahu Hanavi fa un discorso molto famoso in cui dice agli ebrei: smettetela di stare su tutti e due. Sui due uscii delle porte, o siete con Dio o siete con il Baal. E questa è una storia che si legge anche in una Haftarah. In ogni caso, qui vediamo la fonte dell'idea che è permesso deridere questioni idolatre di Avodasara, ma in generale è sempre vietato deridere. La prossima volta vedremo il divieto di vendicarsi.